Il gastronauta di Davide Paolini. Gastronauti vicini e lontani, buona giornata, ma il tema di questa trasmissione ve lo voglio dire in musica. Avete sentito Fammi un panino, questa vecchia canzone, chissà di quanti anni fa era, ma il panino è rimasto, rimane sempre il panino. Però dopo la pizza anche il panino pare che stia diventando gourmet. Bene, io forse sono ancora fermo ai panini con la mortadella ed altro, non so cosa significa esattamente panino gourmet, ma questa è una bruttissima parola, io la ritengo, la ritenevo già veramente indecente vicino alla pizza, ancor più indecente vicino al panino. Cosa significa gourmet? Gourmet non significa assolutamente niente, quindi io devo dire che avrei trovato, magari cercato, per definire dei panini diversi da quello semplice alla mortadella che viene sempre identificato con il muratore su una scala mentre sale e il cappello fatto di carta, io avrei trovato anche qualche cos'altro. Comunque ci sono panini diversi, ecco, mettiamola su questo piano, ci sono panini diversi rispetto appunto a tanti altri del passato. Stamattina sono entrato in redazione e mi è stato chiesto: di cosa parli oggi? Panino, tutti hanno detto alle 10 un bel panino alla porchetta. Insomma, si vede che ancora si è rimasti molto fermi alla tradizione. Ma ora abbiamo con noi un personaggio che, devo dire, ha cambiato abbastanza il panino facendo una ricerca strepitosa sulle materie prime. E la sua paninoteca è a Firenze, che è la patria del panino al lampredotto, ma anche dove io sono stato alimentato durante il mio periodo universitario dai fratellini, che era una paninoteca molto piccola in centro con dei panini già allora ricercati. Buongiorno ad Alessandro Frassica. Ciao Davide, buongiorno, buongiorno a tutti. Prima di iniziare con te devo ricordare il numero di telefono, perché magari qualcuno è a favore, qualcuno al contrario, qualcuno mi segnalerà dei panini. 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Alessandro, tu hai cominciato già da anni a fare una ricerca molto importante sulle materie prime. Ecco, mi dici, c'è veramente un grande cambiamento dal punto di vista del consumatore sulla richiesta del panino? Sì, il cambiamento c'è, te lo sai, noi abbiamo iniziato, cos'era, il 2006 a aprire il nostro posto e non ci siamo inventati niente, era semplicemente la voglia di capire che anche appunto tra due fette di pane ci poteva essere un mondo che andava al di là di quello che ultimamente stava diventando un po' un preconcetto, che il panino veniva visto come una scorciatoia per mangiare veloce, ma mai necessariamente associato ad un prodotto di qualità. Ecco, tu tra l'altro sei su molte città, perché fai parte appunto dentro Italy, hai le paninoteche, quindi sicuramente hai visto i gusti un po', stai vedendo un po' i gusti dei consumatori italiani. Ecco, sono gli stessi in tutte le città o c'è qualcuno che magari ha delle preferenze rispetto ad altri? Ad esempio a Roma. Ma Roma è una piazza diversa, perché magari c'è un consumo, come ti posso dire, molto più diretto, no? Cioè ci vogliono sapori immediati, decisi, e quindi è molto importante anche la maniera con cui comunichi queste cose. Io, come dicevi te prima, sono comunque dell'idea che ci sono due facce della stessa medaglia, cioè il panino, quello semplice, con la mortadella, col prosciutto, con la porchetta, ha la sua ragione di esistere, e secondo me se oggi lo vogliamo far scomparire facciamo un grossissimo errore. Accanto a quello però è anche vero che, come dicevamo prima, cioè il panino è diventato un pasto e quindi ci sono anche altri valori, cioè noi quando mangiamo oggi a pranzo abbiamo anche bisogno, al di là della qualità, anche di degli aspetti, diciamo, di nutrizionali e saluri diversi. Abbiamo quindi creato con i nostri panini il concetto di creare comunque delle ricette che, non, come dicevo prima, non è, anche io, a me non piace usare la parola gourmet, è semplicemente un'evoluzione che va anche al passo con i tempi, quindi lo chiamerei più un panino contemporaneo che va incontro a quelle che sono oggi le esigenze che abbiamo tutti quanti a pranzo. Ottimo contemporaneo. Bene, devo ricordare di Alessandro Frassica un bellissimo libro che è Il Pan apostrofo Ino, quindi editore Tommasi, vale la pena per chi è appassionato di panini. Grazie Alessandro. Grazie Alessandro Frassica di Ino di Firenze, appunto dicevo in diversi Italy appunto come Ino. Ma io voglio andare a Trieste ora, voglio andare da Paolo Polla, che è titolare del buffet da Beppi a Trieste, un locale storico. Buongiorno Polla. Ma buongiorno Davide, siamo qua che ti ascoltiamo, dimmi tutto. Ma da quanti anni fa Panini, Polla? Ma guarda, questo è un locale storico, nato ancora alla fine dell'Ottocento, pensa a te quanti panini abbiamo fatto da quella volta a venire oggi, guarda. E del panino è sempre rimasto quello? Ma guarda, dire il vero, i panini sono sempre rimasti questo. Noto oggi una rivalutazione di questo tipo di cibo, ecco. La gente c'ha un approccio diverso, un approccio più simpatico verso il panino, anche perché è una cosa che mangi così in fretta e naturalmente ti sazia anche, ecco. Ecco, ma questo panino tradizionale triestino è con il prosciutto caldo, è così? Ma guarda, la maggior parte è proprio con il prosciutto caldo, è proprio una specialità tipica triestina. Viene la coscia del maiale che viene cucinata, viene prima salata, affumicata, poi cucinata e viene servita dentro del panino con il caldo, naturalmente, con le varie salse, e vedo che è molto molto apprezzato, specialmente anche della gente che viene da fuori Trieste, ancora di più. Paolo da Venezia, radioascoltatore, buongiorno. Buongiorno, grazie di avermi chiamato. Io volevo segnalare un localino piccolissimo a Venezia, fondamentalmente Tolentini, fa dei panini piccoli e grandi, ma principalmente fa i mini, con degli accoppiamenti meravigliosi. Me ne dica uno. Dico uno, posso dire, non so, gorgonzola e patè d'olive. Bene. Salame nostrano e formaggio. Bene. Salame nostrano e funghi, porchetta veneta. Bene, grazie, ma lei non è il proprietario del locale, no. è caduta la linea, bene, battuta la mia così spiritosa, ma devo dire che stanno arrivando a fiumi SMS, tutti sono per il panino al lampredotto, vabbè, è caratteristico di Firenze, tutti lo sanno. Abbiamo con noi uno chef molto importante, uno stellatissimo. Buongiorno Nino Di Costanzo. Buongiorno Davide, come stai? Bene, senti, ma tu hai fatto, io so che tu hai fatto una consulenza a una catena di panini, sì. e gli hai fatto il panino gourmet o gli hai fatto un panino senza il gourmet? No, ma di gourmet non c'era nulla, Davide, è solo selezionare i prodotti di grande qualità, come la mozzarella di bufala, un grande culatello, un salame, dei formaggi straordinari, facendo dei panini molto molto tradizionali, puntando dei prodotti importanti di ogni regione d'Italia, quindi assemblando un panino per ogni regione d'Italia. Senti Nino, ti sei divertito a fare questi accostamenti? Mangiandoli, immagino. Sì, assolutamente sì, perché Davide, oggi purtroppo per questioni di lavoro, di tempo, quasi più nessuno ha il tempo di andare a pranzo a casa, quindi perché non abbinare dei prodotti straordinari in un panino? Logicamente qua parliamo sempre di prodotti piccoli, ma non di grandi catene che fanno dei numeri pazzeschi. Io ho dato una mano a un piccolo negozietto che fa dei prodotti veramente di qualità, dove la gente può mangiare un panino veramente con prodotti giusti e non di quantità immense, quindi di gourmet vero e proprio non c'è nulla, ma solo una selezione di prodotti buonissimi. Nino, senti, ma hai saputo che c'è un panino che va più di altri? Ci sono alcuni panini che vanno più di altri, tipo come il panino emiliano che abbiamo fatto, che è il panino con la mortadella. Eccolo qua. Quello che con un pane cafone che va fortissimo, come il panino cafone napoletano che è fatto con pomodori cuori di bue, adesso siamo in stagione. Ecco, pane cafone, poi ora voglio tornare poi sul discorso del pane, quindi hai usato pane cafone. Sì, pane cafone, un pane cotto a legna, quindi tagliato a fette, non con la forma di panino, ma tagliato a fette, però fatto al momento. C'è da dire una cosa, che per avere sempre un prodotto di qualità il pane andrebbe tagliato al momento, farcito al momento e mangiato al momento, cioè un panino fatto già dalla mattina per il tardo pomeriggio, la sera, già con un pomodoro appena tagliato, una mozzarella, si farebbe una fatica enorme ad avere la stessa fragranza, certo, di quello invece fatto al momento. Bene, grazie Nino Di Costanzo, il mosaico di Ischia. Bene, Piero da Alessandria, dalla provincia di Alessandria, un radioascoltatore, buongiorno Piero. Buongiorno a lei. Mi dica. Allora, io ho sempre fatto il mio mestiere, era fare rappresentante, dunque ho fatto rappresentante per circa 40 anni e sono un paninaro perché ho mangiato panini per 40 anni. Quando non avevo i clienti da portare a pranzo, ho sempre mangiato il panino, no? Dunque sono un paninaro eccezionale perché ho circa 40 anni. Ecco, diciamo che il panino, a secondo i posti dove lei lo mangia, perché se si trova a Barzi per modere per lavoro, mangiare un panino con il salame crudo di Barzi fa piacere. Però quando lei si trova a Milano o nelle città, diciamo, più grosse, che mangia tutti quei panini elaborati, per conto mio non hanno la qualità di un panino, diciamo, normale, proprio fatto con le fette di salame o il prosciutto o la mortadella, come dicevate voi. Quelli elaborati sono molto gustosi, perché li mangio sempre, però a livello di qualità, per conto mio. Poi un'altra osservazione: il panino è diventato più o meno il costo di un pasto, perché se si trova nelle grandi città il panino costa anche dalle 5 alle 6 euro, diciamo, per panino. Bene. Dire solamente quello. Grazie, grazie. Abbiamo parlato di pane. Ricordo 800 24 00 24 per i radioascoltatori. Abbiamo parlato di pane. Abbiamo con noi un noto fornaio, un noto panettiere di Roma. Buongiorno Pierluigi Roscioli. Buongiorno Pierluigi. Sì. Buongiorno Pierluigi. Pierluigi, volevo chiederti questo: secondo te i panini devono avere un pane particolare, pani particolari, oppure si può usare tutto il pane comune che viene venduto in un negozio? Beh, le tendenze, chiaramente la tendenza degli ultimi due anni, diciamo così, è quella di cercare di fare un panino particolare partendo proprio dal pane. Si chiama panino proprio perché il pane è l'elemento più importante, no? Certo. E quindi molti chef, molte persone, diciamo, di questo ambito cercano di partire innanzitutto dal pane, cercare dei contrasti, quindi un pane molto croccante, con un ripieno morbido e cremoso, piuttosto che un pane molto morbido, faccio l'esempio dell'hamburger, che è tornato prepotentemente di moda negli ultimi anni, con un ripieno altrettanto burroso, no? Un pane morbido su un ripieno particolarmente croccante. Ecco, senti... Anche se io personalmente sono per la linea di Nino Di Costanzo, insomma, cercate di trovare sempre il massimo nella materia prima senza stravolgerla, e anche quindi anche un buonissimo pane a fette, un cafone cotto a legna o un pane rustico stile lariano dice sempre la sua come accompagnamento al ripieno. Ecco, tu hai fatto un panino, mi ricordo un panino in cui dentro c'era il sapore di liquirizia. Ecco, questo, sì. questo per accostarlo ai prodotti che c'erano poi messi in mezzo, è così? Sì, c'era all'interno, era un pane all'olio extravergine d'oliva con liquirizia che era farcito con una scaloppa di foie gras, con un ketchup al mango a fianco, insomma un panino di impostazione gourmet che richiedeva appunto, come dicevo, un pane studiato, un pane che avesse al suo interno un contrasto, un bilanciamento leggermente amaro per la grande dolcezza del foie gras, no? Certo, quindi un accostamento studiato anche a tavolino. Grazie Pierluigi Roscioli, grazie. Grazie a te. Grazie. Buona giornata. Buona giornata. Claudio da Grosseto, un radioascoltatore. Veloce, ciao. Claudio. Ciao. Vai. Ascolta, noi non siamo, io sono, adesso mi trovo a Grosseto, però sono di origine siciliane. Noi siciliani non ci siamo mai fatti mancare nulla. E volevo dare la testimonianza che sempre appunto segnalatomi da mio nonno, che 100 anni fa col carretto passava dalla litoranea della... che costeggia, diciamo, la costa messinese, che arriva fino a Cefalù, eccetera. Ci sono delle panetterie dove durante la notte, per verso le 3, le 4, quindi anche per i discotecari, eccetera, sfornano delle pagnotte che poi dopo si condisce con il buon olio o buon olio siciliano, pepe, poi dopo si sono anche adeguati con i sottaceti locali, i salumi, i formaggi. Insomma, si sono evoluti verso il panino sofisticato, è così. Utilizzando però il vecchio nome che si utilizzava allora, il pane puntato, il pane condito. Bene! Quindi pane sfornato, appena sfornato, bello caldo, quel pane, sai, quelle belle pagnotte di semola, di grano duro, rimacinata, è una cosa eccezionale. Grazie, quindi, grazie non Claudio. Non siamo secondi a nessuno. Grazie ciao, Claudio, Paolo. Grazie Claudio da Grosseto. Sentiamo, abbiamo con noi un altro chef importante, bistellato anche lui. Beh, mi ha molto sorpreso perché ho letto che fa il panino di strada. Buongiorno Mauro Uliassi. Ciao Davide, come stai? Tu vai proprio controcorrente, insomma, dal gourmet vai alla strada. No, sì, ma questo è un progetto di 5-6 anni fa che poi abbiamo realizzato nel 2011, quindi sì, abbiamo un trek, quindi facciamo questi eventi da strada e ci stiamo divertendo molto, perché comunque è un po' riportare l'alta cucina alla portata di tutti, perché poi lo street food che cos'è? È un cibo che viene spogliato da tutte quante le sovrastrutture del ristorante, quindi niente tovaglia, niente camerieri, niente bicchieri importanti, ma solamente un cibo buonissimo messo su un pezzo di carta da mangiare. Pronto, è sparita la comunicazione, peccato. Beh, mi spiace, sentiamo Daniele da Torino, radioascoltatore. Buongiorno Paolini, sono Daniele, volevo solo fare una piccola segnalazione. Io per qualche anno ho abitato a Firenze e ho avuto il piacere di conoscere un panino fantastico, che è un panino al bollito al mercato di San Lorenzo, da Nerbone, se si può fare questo. Sì, tipo, Nerbone è molto famoso per il panino al lampredotto, comunque... Al lampredotto, sì. Però io ho assaggiato il panino al bollito, sì. è una cosa deliziosa. E volevo segnalarlo perché effettivamente è una cosa molto conosciuta sia in città, a Firenze, sì, ma penso anche dagli stranieri, che certo. Sono code chilometriche. Bene, grazie Mauro, ti ho ripescato. Sì, pronto, sì. Sì, sono in viaggio, per cui sì. Vai e viene. No, ti dicevo che per noi, insomma, il cibo della strada è stata un'esperienza straordinaria, anche perché questo cibo, che il cibo della strada alla fine che cos'è? È un cibo che viene spogliato da tutta quanta quello che è il ristorante, quindi dai tovagli, i camerieri, i piatti importanti, le stoviglie, è fatto solamente cibo che sta sulle mani in un pezzo di carta da mangiare per strada insieme ad altri. Quindi diciamo che una conoscenza professionale può dare molto a questo nuovo modo di mangiare, appunto con un cibo che tecnicamente viene pensato a un livello, insomma, molto, molto evoluto. Ecco, ma tu che pane usi per il panino? Sì, noi ce lo facciamo per conto nostro e ha avuto un successo straordinario, che si chiama il panino di porchetta con la porchetta. Si tratta di un pane. Ecco, panini la porchetta. Che si possono anche preparare in quantità industriali, noi ne prendiamo anche 5-6.000 per volta. E si tratta di un pane che viene, è studiato apposta, che viene affumicato, dove c'è un'acqua affumicata per dare questa nota di fumo tipica del pane cotto nella legna. Un pane marchigiano, si chiama panino di porchetta perché già soltanto di suo ha un forte sapore di porchetta, in quanto sopra c'è uno strato di lardo con i classici condimenti della porchetta, che sono il finocchio selvatico, l'aglio, il rosmarino e il timo. Poi in mezzo viene messa una porchetta cucinata a bassa temperatura, condita con sempre il finocchio selvatico, l'aglio e il timo. Poi mettiamo un pomodoro, una fetta di pomodoro per rinfrescare il gusto così importante, una fetta e un pezzo di cipolla di Tropea caramellata, e poi la pelle del maiale viene bollita, essiccata e fritta, e quindi abbiamo anche la nota crunchy. Poi viene passato tutto quanto in forno di nuovo e abbiamo questo panino che è morbido dentro, croccantissimo fuori e caldo. C'è una segnalazione di un radioascoltatore da Bergamo che veramente mi piace farla, perché lui ricorda che il paninaro chi veniva identificato con questo nome era Giorgio Faletti, grande scrittore, attore, cantante, che è scomparso. È un modo anche per ricordarlo. Ma sentiamo un altro radioascoltatore da Salerno, Antonio, provincia di Salerno. Prego Antonio. Sì, ciao Davide, buongiorno. Buongiorno. Mi faceva piacere fare questa segnalazione perché anch'io sono uno di quelli che a pranzo mangia panini abitualmente. E c'è una piccola attività proprio a Lucia di Battivaglia che si chiama il panino di serie A. Secondo me mai nome più azzeccato, perché lui produce del pane, fa, grazie alla sua esperienza in un forno molto soffice, lo abbina della mozzarella di bufala campana, DOC, chiaramente, con del prosciutto 24 mesi. Bene. Invecchiato 24 mesi ed è un abbinamento favoloso. Grazie Antonio, visto che tu stai parlando di Battipaglia, devo leggere un SMS che arriva da Gragnano e dice: ricordate il panuozzo, ma non viene mai citato. Maria che ci ha scritto, ecco, glielo ricordo. Ma ora andiamo in Toscana, andiamo a Viareggio, poi andiamo a Forte dei Marmi, pensate un po'. Allora andiamo prima a Forte dei Marmi da Roberto Santini, che è il patrone del bagno Piero, famosissimo in tutta Italia. E volevo chiedere appunto a Roberto Santini, che ha aperto recentemente un altro bagno che si chiama Boe e ha deciso di fare un bagno dove vengono serviti solo panini. Buongiorno Roberto. Buongiorno Davide, come stai? Bene, io so che tu hai fatto una grossa ricerca per trovare il pane giusto, e alla fine quale pane hai trovato? ma ascolta, lui ci fornisce, infatti mi raccordo un attimo con lo chef che ha parlato prima, perché anche noi siamo sul pane tagliato a fette, perché è questo che ci dà la soluzione migliore per il nostro prodotto, fatto al momento, ed è il panino fatto al momento. Il pane è un pane cotto al legno, pane integrale. Ho capito. Bene, stai con noi perché ora andiamo a Viareggio. Andiamo a Viareggio da una storica paninoteca. Andiamo dalla Francesca Venturi, titolare di Adone. Buongiorno, Francesca. Buongiorno, buongiorno, che piacere. Da quanti anni fa il suo locale fa panini? Il mio locale fa panini dal 1981, quindi sono 33 anni, se non sbaglio. Ecco, quale pane usa lei per i suoi panini? Allora, per i miei panini adopero tipi differenti di pane a seconda degli ingredienti che vanno nel panino stesso, o del pane integrale, o del casalingo sciocco, secondo la tradizione toscana, che valorizza quindi gli ingredienti all'interno, e ho una baguette che è stata costruita espressamente per noi. Difatti qualcuno ha provato ad imitarla e quando la gente la vede in giro dice: mi dà un Adone, perché Adone è il nome della bottega, e ha dato il nome anche a questo pane. Senta, ma lei il panino più richiesto, qual è il suo panino più richiesto? Il panino più richiesto indubbiamente è il panino che ha il nome della casa, con un prosciutto cotto affumicato, un formaggio tenero spalmabile e dei carciofini sott'olio. Una cosa semplice, leggera, digeribile, gradita in generale. Ma Roberto Santini, invece tu qual è il panino, cioè, che stai facendo che ha più successo, anche se è, diciamo, da poco che lo stai facendo? Assolutamente, saluto volentieri gli amici di Adone, io ci andavo ai tempi del liceo 30 anni fa, quindi li ricordo sempre volentieri. Noi facciamo sempre con prodotti che produciamo noi presso un'azienda agricola nostra, qui nella campagna tra Forte e Pietrasanta, quindi andiamo sui classici con pomodoro oppure melanzane e zucchine che facciamo noi, e li abbiniamo ai formaggi e alle salse che fa il nostro chef, però tutto abbinato con i vini dell'Enoteca Marcucci di Pietrasanta, che abbiamo studiato insieme anche degli abbinamenti vino e panino. Ecco, quali sono i vini, diciamo, che si adattano di più ai panini, Roberto? Ma sicuramente su quelli di pesce andiamo su la cantina di San Michele Appiano, che ci dà questo Pinot Nero, che anche l'estate è un vino che è perfetto, anche servito fresco, oppure sempre loro il Pinot Bianco. Sulle cose toscane andiamo sulle cose più tradizionali invece andiamo su un rosso toscano, quindi è un sangiovese in purezza che va moltissimo. Ma ecco, visto che ho Roberto Santini e il Bagno Piero, volevo ricordare il panettone d'estate. Perché? Perché il 15 d'agosto al Bagno Piero ci sarà un grande evento che riguarderà il panettone d'estate, che parte il mercoledì 16 da Milano, dall'Excelsior in galleria, dove ci saranno 20 pasticceri che appunto faranno assaggiare il panettone d'estate, che fa parte di questa, diciamo, ormai tradizione, lo ripeto, tradizione, perché lo sta diventando, così come tradizione natalizia, del panettone d'estate e del panettone tutto l'anno. Ma io torno a Francesca Venturi per chiedergli quali sono gli abbinamenti vino, birra oppure bibite che vanno di più coi panini alla paninoteca Adone. Noi teniamo una birra alla spina che viene dal sud della Germania, Kulbach, ormai da quando abbiamo aperto bottega, e che riceve buona accoglienza da parte dei nostri clienti. Come vino anch'io mi baso su un sangiovese in purezza, perché accompagna bene i salumi toscani che noi adoperiamo, come il salame toscano, il lardo di Gombitelli che è un paesino, un'isola linguistica qui nel Camaiorese, e poi abbiamo delle pancette fatte apposta dal nostro norcino che si accompagnano lo stesso molto bene con i nostri rossi. Ecco, Gombitelli, questo lardo di Gombitelli, lardo di Gombitelli. Mi stimola, è una frazione Gombitelli? È una frazioncina minuscola su una collina del Camaiorese che era famosa ai tempi antichi perché costruivano le chiavi. fabbricavano le chiavi più famose di tutta la zona e è esposta molto bene con un'aria molto fresca, e adesso è famosa più che per le chiavi per il nostro salumificio, il salumificio che ci procura gli ingredienti principe per il nostro lavoro. Ma questa è una notizia molto interessante, perché io sapevo che a Camaiore c'è una mortadella speciale che si chiama mortadella di Camaiore, che è diversa, ma Gonvitelli, bene, è un posto sicuramente da andare a scoprire. Bene, se vuole le do anche il nome del salumificio. Ma poi me lo dà, poi la chiamerò a parte e mi dà il nome del salumificio. No, me lo dica pure. Molto, molto volentieri. Come si chiama il salumificio? Triglia. Beh, Triglia. Come il pesciolino. Ecco, allora, da tutte le parti mi arrivano telefonate, mi arrivano sms che il paninaro del drive-in era Enzo Braschi. Rendiamo così giustizia, ma io avevo letto semplicemente un sms che sembrava molto, molto convinto, e mi dispiace per Enzo Braschi per aver detto una cosa che non è molto, molto, molto corretta. Ma voglio tornare a questi due personaggi toscani che sicuramente... E durante il periodo estivo, diciamo che è il massimo del lavoro. Ecco, durante l'estate, in agosto, voglio tornare da Francesca Venturi, cioè a Viareggio, si lavora come d'inverno per il panino? Indubbiamente sì, perché il panino è un alimento apprezzato anche sulla spiaggia. Chiaramente dipende dagli ingredienti che vengono messi all'interno del panino stesso, non ci sono flessioni per questo tipo di prodotto. L'inverno si richiedono prodotti anche stagionali, ad esempio noi facciamo dei panini con crema di ceci o di fagioli, con soppressata o un biroldo fatto in zona, e d'estate magari ci facciamo dei splendidi panini vegetariani, anche panini con ingredienti semplici ma ben accostati, tipo, che so, un formaggio spalmabile con patè d'olive, cuore di palma, pomodoro fresco e cuore di bue, il pomodoro naturalmente, e cipolla, che è delizioso anche mangiato sotto l'ombrellone, oppure dei panini con prosciutto e fettine di melone sottile. E quando arriva il settembre, invece del melone mettiamo i fichi, e basta trovare l'abbinamento giusto che accompagni una giornata o di sole o di freddo. Bene, volevo anche precisare una cosa che purtroppo non ho potuto parlarne, perché ho cercato il responsabile appunto di questo grande evento che è avvenuto ad Este, che si chiama Bread Religion, ma non è stato possibile diciamo averli in trasmissione. Voglio ricordare che è stato un grandissimo evento, mi sembra, con una partecipazione enorme di pubblico e di chi faceva panini, quindi questo significa che anche il panino sta diventando un evento molto, ma molto importante. Vorrei leggere anche altri diciamo sms che mi indicano una serie di paninoteche. Bene, tutti ricordano il panino con la porchetta. Ebbene, devo dire sì, è vero, ci sono tantissime paninoteche volanti che servono alla porchetta. Io dalle mie sperimentazioni devo dire che la qualità veramente è molto, molto, molto bassa, perché quella porchetta non è fatta come Dio comanda, ma anche il pane, diciamo, è quello che capita. Ma sentiamo Giovanni da Firenze, un radioascoltatore. Buongiorno. Ciao, ti seguo tantissimo. Ma io ti ringrazio. Parlando di panini, non si può fare a meno di parlare del famoso caprese fatto a Capri, proprio perché chi l'ha mangiato resta nella memoria. Cioè, panino alla caprese, cos'è, con pomodoro e mozzarella? Pomodoro e mozzarella, però fatto a Capri con un pane particolare. Niente di particolare, nel senso che viene fatto in tutte le botteghe alimentari di Capri, però ha un sapore incredibile, cioè inconfondibile rispetto fatto ad altri posti, insomma. Ecco, ma non è che sia Capri che sia che dia diciamo un qualcosa di più mangiandolo a Capri, che invece io... mangiandolo a Milano, nel centro di Milano, insomma, diciamo che c'è una differenza, insomma. È diverso, sì, è diverso, ecco. È diverso. Anche la porchetta magari mangiata non so, lungo le strade di sera di Milano mentre piove è un po' diverso che mangiarla nelle Marche, magari nella zona appunto dove la porchetta viene passata al forno. Abbiamo sentito, abbiamo fatto un po' un giro d'Italia, abbiamo sentito quanta importanza ha il pane, perché il pane non è secondario, si cercano appunto prodotti molto particolari, ma se non c'è un pane buono sicuramente il panino scade alla grande, quindi attenzione, insomma, cari paninari, attenzione al pane, anche se mettete dentro prosciutto a 30 mesi o non lo so, o un salame straordinario, se poi cadete nel pane cade un po' tutto. Devo dire che arrivano continuamente degli SMS che mi segnalano sì, diciamo panini in tutta Italia. Bene, come non si può ricordare il panino Cameusa, il pane Cameusa di Palermo e della Sicilia, sicuramente uno dei panini storici, che io lo metto con il Lampredotto, perché sono i due panini, ma ora con un terzo di cui parleremo. Sono poi panini storici che fanno parte anche della storia e della tradizione della gastronomia di strada italiana. Ma sentiamo un radioascoltatore, Franco da Genova. Buongiorno Franco. Buongiorno, io volevo dire la mia sui panini. Prego. Panini sono quasi tutti buoni. Secondo me il campione del mondo è quello con la frittata di cipolle. Però la frittata di cipolle deve essere fatta con olio extravergine di oliva, formaggio parmigiano e uova buone. Secondo me quello è il campione del mondo. Poi c'è anche la focaccia genovese con prosciutto crudo e stracchino. Bene. Questo è il mio pensiero. Certo, ma io non sono d'accordo con lei che i panini sono tutti buoni. Cioè i panini non sono tutti, ci sono sicuramente panini buoni, ma ci sono anche panini molte volte immangiabili, diciamoci la verità, specialmente in giro per l'Italia, magari quando si è costretti a fermarsi dopo tanti chilometri, insomma, in alcuni punti sicuramente i panini non sono al meglio. Ma sentiamo un altro radioascoltatore, Roberto da Modena. Buongiorno Roberto. Buongiorno, volevo segnalare il generi alimentari, il panino che ha aperto il collaboratore di Bottura. Non so se lo conosce già. Sì, conosco. È già stato. Non ci sono stato, ma conosco benissimo anche la persona che lo gestisce, quindi sicuramente. E lei ha mangiato. Cosa ha mangiato? Altissima qualità, con la mortadella è favoloso. Bene, quindi panino con la mortadella semplice o c'è qualche cos'altro dentro? No, dopo fa anche delle specialità molto molto particolari con il pane che viene dalla Basilicata, credo. Beh, un pane straordinario, perché il pane della Basilicata... Pane straordinario, prodotti straordinari, io lo metterei al primo posto in Italia. Bene, Roberto, facciamo la graduatoria, lanciamo 800240024, qual è la miglior paninoteca d'Italia? Votate, chiamateci sicuramente. Bene, vedo che a proposito di mortadella mi è arrivato proprio ora un SMS, si ricordi la mortadella di asino e la soppressa di San Martino Treviso? Sì, ma dove l'ha mangiato questo panino, caro signore? Insomma, non è che sia così facile da trovare. La soppressa sono d'accordo, ma la mortadella di asino, un tempo si diceva che molte mortadelle che erano in vendita come mortadella di suino in realtà contenevano molto asino. Speriamo che non ci siano più di questi, diciamo, bisticci, insomma. I panini che faceva la nonna, vino e zucchero, burro e zucchero, burro e acciughe. Beh, non so chi mi ha mandato questo SMS, ma il panino, cioè il pane, non il panino, il pane con lo zucchero, un po' di zucchero sopra, il pane, vino e zucchero, mi ricorda, ne ho mangiato veramente tanto ed era squisito, questo ricordo mi porta molto molto lontano. Ma ora ho parlato di panini storici, ho parlato di panino al Lampredotto, ho parlato di panino alla porchetta, insomma ci sono dei panini che segnano. Pane Cameusa in Sicilia, sono panini che segnano la tradizione di un territorio, ma c'è anche in Calabria un panino che segna la tradizione in particolare di una città, di Catanzaro. Buongiorno Massimiliano Cartaginese. Buongiorno, buongiorno. Il locale si chiama Pepe il Rosso, è in città, è famosissimo. Sì, è il centro storico. È il centro storico. Ma Massimiliano, il panino al morzello è sicuramente il morzello è sicuramente parole, sì. Come si dice in dialetto, perché so che c'è morzeddu. Pronto? Sì, ce lo racconta questo panino, perché... Poche parole, nasce dalla cucina povera, perché è fatto con l'interiore di vitello. Questo pane, ad esempio, è un pane che nasce i fornai, per vedere se il forno aveva raggiunto la temperatura, facevano questa pitta, che è una ciambella stretta, e veniva infornata. Questo pane nasce e viene accompagnato dal morsello, perché si taglia a tranci e si riempie, e può essere pure un cibo da strada. Quindi, ma diciamo che è una cosa secolare ormai, sì, il pane. Esiste da sempre, è secolare, perché è di origine araba, sia il pane che il morsello. Saremo pure all'Expo del 2015 forse col morsello, dopo quasi 200 anni forse riusciamo a farlo conoscere al mondo. Senta, Massimiliano, ma che pane usate? Che pane viene usato? È un pane che non è pane comune, perché la pista è una ciambella stretta e opaca, quindi non viene fatto come il pane comune lucido, sempre di farina di grano tenero, però è fatto particolare, farina 00, però viene cotto quasi a vapore oggi, quindi viene opaco, è un pane opaco, diciamo. Senta, ma questo pane si trova abitualmente, viene mangiato anche nelle case in maniera normale? Solo oppure col morsello, oppure come sentivo con la mortadella, però è un pane che si trova solo a Catanzaro, perché è fatto apposta per questo piatto tipico che è il morsello. Senta, e voi fate altri panini particolari? Si può fare sia con questo spezzatino di trippa di vitello, oppure col morsello di baccalà. La procedura è identica, con lo stesso sugo, lo stesso intingolo. Il problema è che è di baccalà, viene tagliato a pezzetti, messo nella pentola a cucinare con un po' di peperoncino naturalmente, e si riempie questa pitta con il morsello di baccalà. Sente, quando parla di baccalà, parla di interiore, parla di trippa? No, parlo proprio di baccalà. Ah, proprio baccalà, di baccalà, insalato, non di trippa. Sì, che viene messo nell'acqua 2-3 giorni, fatto ristalare e poi tagliato a pezzetti, e si fa con questa salsa con l'origano e il peperoncino. Ecco, di solito cosa viene abbinato? A un vino, a una birra? Sì, io di solito a questi piatti che sono abbastanza piccanti, un derello calabrese, un gaglioppo ci stanno benissimo. Sì, di alcune cantine pure di Cirò in modo particolare. Bene. Ci vuole un vino corposo sui 13,5, perché essendo piccante ha bisogno di. Devo dire che se si mangia, diciamo, durante il mezzogiorno, insomma, tornare al lavoro è un po' dura. Va bene. No, questo è un piatto che si può mangiare sia a pranzo che a cena, e io anche l'estate faccio il morsello. Sì. Perché è un piatto che si consuma tutto l'anno. Bene. Bene, la ringrazio, Massimiliano Cartaginese, la vecchia osteria da Pepe. Grazie. Ma grazie. Franco dalla provincia di Cuneo, buongiorno Franco. Buongiorno, buongiorno. Prego. Volevo solo segnalare un panino alla salsiccia di Bra. Bene, spieghiamo, se lo vuole lo faccio io, ma lo spieghi lei, che la salsiccia di Bra ha una peculiarità molto importante. Sì, è fatta di bovino, generalmente qua con una percentuale del 95%, con magari qualche piccola quantità di suino, però viene messo anche un po' di pepe, in alcuni casi si aggiunge anche del castelmagno. Ah, ecco. E si mangia rigorosamente cruda. Ecco, quindi mettiamo il panino con castelmagno e salsiccia di Bra. E quale pane usiamo, Franco? Ah, si usa un pane di entracque, che è fatto con acqua particolare, o anche una buona focaccia, però generalmente lo si riesce a trovare sull'autostrada Savona-Torino, all'altezza di Carcare Altare. Bene, bene, abbiamo anche questa indicazione per chi viaggia da quelle parti. Ma c'è un SMS che purtroppo non abbiamo tempo, però avrei chiesto a Marco, che ha mandato questo SMS, di intervenire, perché dice: vendo circa 80 varietà di pane congelato per 2 milioni di panini all'anno, quindi incredibile, e dice ingredienti fanno la differenza al bar. Bene, io avrei voluto parlare allora di questa differenza tra pane congelato e pane fresco, perché sarebbe stata una discussione molto molto importante, perché dico un numero incredibile, veramente 2 milioni di panini, sarebbe interessante poterli calcolare. Bene, non so quanti panini si possono vendere, ma sicuramente, visto il boom che c'è oggi in giro, non so se è derivato anche dalla crisi, e quindi diciamo che con 4-5 euro forse si può mangiare un ottimo panino anche sostanzioso, e con la crisi che c'è probabilmente a mezzogiorno è una via d'uscita, e questo, che vedere un panino gourmet appunto in questo momento è un po', non dico fuori luogo, ma sicuramente molto sofisticato, forse non è il momento giusto, ma speriamo che lo diventi, perché speriamo che, diciamo, la crisi svanisca sempre di più. Bene, allora Claudio da Milano, 30 secondi. Eccomi qua. 30 secondi. Ci sono alcuni panini vengono scaldati e aumentano la loro fragranza e la loro bontà, altri invece sono freddi. Bene. E aumentano la loro grazie bontà. Grazie, perché c'è il mio, c'è la mia, mio amico milanista che mi fa segno di dover interrompere. Allora abbiamo chiuso, grazie a tutti e arrivederci alla prossima settimana.